Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti anche oggi insieme, e saluto subito il primo ospite della giornata, il nostro medicuoco, quasi cuoco. Buongiorno dottor Arzegovesi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Ricordo che il dottor Stefano Arzegovesi è nutrizionista e direttore del Centro Disturbi Alimentari del San Raffaele di Milano. Dottor Arzegovesi, ospite praticamente fisso della Bufala in Tavola, facciamo un'eccezione, ci sentiamo anche di venerdì, perché vogliamo parlare con lei di quanto e come la nostra dieta, l'alimentazione può darci una mano in questo momento di grande emergenza, in cui tutti noi vogliamo far sì che il nostro sistema immunitario sia gagliardo e affronti questa sfida. Dottor Arzegovesi, che cosa possiamo aspettarci da quello che portiamo a tavola? Benissimo, mi piace molto l'idea di un sistema immunitario gagliardo, che rende molto bene l'idea di quello che dobbiamo fare a tavola. Ma la cosa fondamentale è pensare a un modo di mangiare che non a caso rende più efficiente al meglio il nostro sistema immunitario, ma contemporaneamente con lo stesso modo riusciamo ad avere la migliore difesa verso lo stress. Teniamo conto che questo è sicuramente un periodo dove lo stress cronico non ci aiuta. Quindi dobbiamo immaginare un'alimentazione che nella maniera più efficiente possibile, ma anche gustosa, ci aiuti ad avere nel piatto quegli alimenti che la ricerca scientifica ha definito con grande precisione essere degli alimenti che aumentano le difese, ma soprattutto regolano al meglio il funzionamento dei nostri batteri intestinali, cioè il microbiota, e di conseguenza, posto che il microbiota influenza tantissimo la regolazione dell'immunità, e contemporaneamente quindi il funzionamento delle nostre difese. Dottor Arzegovesi, in tutte le puntate, in tutte le trasmissioni, cerchiamo sempre di sottolineare quello che questa esperienza ci può dare per fare del limite, come si dice, una risorsa. Sicuramente il tempo, noi dobbiamo stare tutti a casa, lo ripetiamo, e abbiamo più tempo a disposizione. Questo potrebbe essere una buona occasione, ad esempio, per rimettere un po' a punto il nostro stile alimentare. Ed è quello che faremo con i suoi consigli, i suoi suggerimenti. Al tempo stesso è importante fare una premessa, dottor Arzegovesi. Sì, la premessa è importantissima, è quando noi mangiamo o facciamo qualcosa che ci fa bene, attenzione a un meccanismo inconsapevole, quindi un po' vigliacchetto, che è il meccanismo dell'autoassoluzione, cioè faccio una cosa che mi va bene, allora a questo punto chi se ne frega di seguire le direttive di sicurezza? Assolutamente no, quindi state a casa, lavatevi le mani, proteggetevi, mantenete le distanze esattamente come gli esperti vi consigliano di fare, ma usiamo l'occasione di stare a casa per fare dei semplicissimi atti quotidiani importantissimi per mettere a tavola il benessere. Quindi ad esempio ci vuole tanto a fare i legumi, siamo a casa, approfittiamo per cucinare al meglio i nostri legumi mettendoli a mollo, quindi partendo dal prodotto secco originario. Ci vuole tanto a fare le verdure, approfittiamo di stare a casa per preparare le nostre verdure. Quindi possiamo anche fare un po' scorta, dottor Arzegovesi. E poi scorta e prepariamo, ammolliamo, facciamo i nostri pacchettini, ecco, li congeliamo. E sono subito pronti poi. Dottor Arzegovesi, tra l'altro proprio lo stesso gesto di cucinare, pelare, tagliare, mondare, affettare, impegnano le nostre mani, e quindi in qualche modo sono degli esercizi straordinari per rallentare un po' per tenere un pochino a bada l'ansia, per tenere un po', per governare un po' i nostri pensieri. Lei è anche psichiatra, mi può dare una mano per trasmettere anche questo messaggio, che è supportato, sì, e confortato da dati scientifici. Non è che se uno si occupa, ecco, dottor Arzegovesi. C'è in questo momento una letteratura scientifica molto crescente sull'effetto della mindfulness, quindi di una tecnica che al di là delle origini dalla meditazione zen è fondamentalmente una tecnica legata alla concentrazione sul momento presente. Quindi qualsiasi cosa noi facciamo, in particolare preparare le nostre verdure, può avere un effetto che all'interno di questa concentrazione si traduce in un effetto a livello di sistema nervoso centrale, ad esempio si abbassa il cortisolo, quindi il mediatore dello stress, e cosa ancora più sorprendente, cambia la dimensione dei telomeri. I telomeri sono quella parte, quei cappuccetti dei nostri cromosomi che sono correlati all'invecchiamento, quindi sembra quasi che privilegiando dei piccoli momenti di concentrazione, non servono le ore, basta un quarto d'ora, una mezz'oretta al giorno, noi non solo ci occupiamo del nostro stress, ma mettiamo anche le basi per poter vivere sani più a lungo. Quindi da questo punto di vista, cucina antistress, diciamo così, cucina antistress. La mindfulness della carota piuttosto che la mindfulness del carciofo o del broccolo significa, mentre siamo lì a fare qualcosa che apparentemente ci farebbe dire in una giornata in cui siamo indaffarati, sì, ma che noia star qui a preparare le verdure, prendiamoci quel quarto d'ora invece come un momento di grande contatto, di manualità fine e quindi di concentrazione su qualcosa che, al di là di essere buonissimo quando poi lo metteremo nel piatto, sarà anche molto efficace proprio come tecnica di regolazione dello stress. Concentrati e gentili, perché noi promuoviamo. Ma certo, dottor Arzigovesi, abbiamo la gentilezza anche nel trattare i vegetali. Vero, abbiamo lanciato anche la gentilezza nei confronti delle spezie, perché le spezie sono timide, ricordo in una puntata. Sono timide, le verdure anche bisogna essere. E in modo particolare la zucchina, che ritorna spesso nelle sue ricette. La zucchina bisogna trattarla con gentilezza e con rispetto, perché sennò sa di poco, povera zucchina. Povera zucchina. E allora quindi, dottor Arzigovesi, come a dire, mettiamoci all'opera. Tra l'altro voglio dare un'anticipazione, il dottor Arzigovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco, così lo conoscono gli amici che seguono ogni domenica la bufala in tavola, ogni giorno nello spazio che di Obiettivo Salute con voi tra le 10:30 e le 11 ci raggiungerà per darci la sua indicazione, la sua ricettina, per insegnarci a arricchire la nostra dieta di quelle sostanze che possono aiutare il nostro sistema immunitario a mantenersi gagliardo, così l'abbiamo definito, gagliardo. Tutto naturalmente con il supporto e il conforto della scienza. Dottor Arzigovesi, allora andiamo. Allora, cominciamo a pensare a un modo di sfruttare al meglio le nostre verdure invernali. Non è un caso che le verdure invernali siano da mangiare in abbondanza in questo periodo, perché hanno dei principi attivi specifici per rafforzare al meglio le nostre difese. Ma questo vuol dire, al di là dell'emergenza attuale, pensiamo per tutte le patologie invernali, dal banale raffreddore all'influenza più o meno brutta che può esserci tutti gli anni. E quindi in quest'ottica mettiamo una mano di attenzione in più alla famiglia dei cavoli, quindi cavoli, broccoli, cime di rapa, piuttosto che cavolo cappuccio, cavolo viola e tutto il resto. Il mio consiglio, l'insospettabile rucola. La rucola, che tra l'altro si trova anche in stagioni più estive e che dà una grande spinta aromatica e una grande sazietà anche ai nostri piatti e alle nostre insalate. Che fa parte insospettabilmente della stessa famiglia, è corretto? E anche la rucola, è anche lei una crocifera, lei le sa sempre tutte, Nicola. No, le imparo da lei, dottor Arzigovesi. E quindi assolutamente, facciamoci dei ricchi piatti, facciamoci una ricca zuppa, ad esempio, nel modo più semplice. Mettiamo una base di una liliacea, quindi una cipolla, un cipollotto, uno scalogno, un letto fatto andare in padella, stufare lentamente, gentilmente, come dicevamo prima. Ci mettiamo del cavolo fatto a striscioline fini, fini, fini, lo lasciamo andare coperto per una ventina di minuti. Alla fine aggiungiamoci un pizzico di semi di cumino o cumino dei prati, che dà una potenza in più da un punto di vista di polifenoli antiossidanti, ma dà anche un sapore un pochino più interessante, un pochino meno piatto. Insomma, non la minestra di cavoli, lei mi sta dicendo, non la, esatto, solita minestra di cavolo, ma la solita minestra che uno dice ma no, ma chi me lo fa fare, ma qualcosa che è stuzzicante, bello colorato, perché poi il cavolo viola, se ci mettiamo un goccino di aceto alla fine, prende un bel colore rosso brillante, quasi rosellino in certe sfumature, quindi questo soddisfa anche la nostra vista. Dottor Arzigovesi, ha parlato di liliace, è dimostrato l'effetto antinfiammatorio, antisettico dell'aglio? Assolutamente sì. Perché stavo pensando che, ecco, aiuta a mantenere le distanze, che ricordiamo vanno mantenute sempre. Ecco, in questo periodo esagerate con le liliacee, soprattutto quelle molto aromatiche, quindi primo di tutti l'aglio. Il mio consiglio è attenzione all'aglio crudo perché può essere un po' troppo stimolante in termini di acidità, cioè a volte può dare fastidio a livello di stomaco, ma mettere dentro un bel po' di spicchi d'aglio, anche 3 o 4, a fettine o tritato nella vostra minestra, nella vostra zuppa, e quindi in qualche modo scaldato e quindi un po' ingentilito dal calore, al di là di avere un effetto, come dire, naturalmente distanziante, ha sicuramente un effetto potentemente antisettico e potentemente prebiotico, quindi amico dei nostri batteri intestinali. Dottor Arzegovesi, grazie. Noi ci sentiamo nello speciale Obiettivo Salute con voi oggi, vi ricordo, tra le 10:30 e le 11, con tutti i nostri esperti pronti a dare le indicazioni, suggerimenti, consigli, e quindi vi aspettiamo le vostre domande al nostro numero verde oppure via WhatsApp o i vostri messaggi. Grazie dottor Arzegovesi, ci sentiamo. Grazie a voi. Grazie.